Maringa, Maringa, Maringa, Maringa, Maringa, Maringa, Maringa, es la Maringa. I'm sure you want to call me in the county to wait this time. I can wait and want to wait. Wait for me, Aleko, to find it. I can't believe you can't upstairs on at once. It's La Maringa! Thank you. la maringa tiene come età, pina che sinita, ti che sonita, a che ne tina, ma te sabata che ne, ma che ne caccia candi, che tu sa che tina. Maringa mi io cana, e che ne tina, ma se che ne cotana, e che ne ma cina che se che ne, ma te che se che tu che se che la che se che. Maringa, io che tana, e che tu sa, e che mi tenga, e che mi tua che c'è cosa che se che che te cosa che se che la che te cosa che le. Maringa, e che tuna, e che teja, e che tosa, e che muita, ma come, ma insomma, es la maringa! Desde la canción de las maringas, de Chuna Pequeña Machinas. 3, 1, 15, 1, 2, 1, 2, 3, 4.